mentre affoghi tra problemi e polizia. Si avvicina inesorabile la tua rovina. Gli abissi risucchiano la tua gioventù in cambio di una vita di schiavitù. Svanito il sogno di un mondo migliore, avete estirpato radici e tradizione. Ci resta solo la ribellione contro una società vigliacca e senza onore. Maestri dell'inganno non ci avrete mai, profeti del nulla per voi saranno guai. Scalfire la roccia tu non puoi, una forza millenaria scorre dentro di noi. Le nostre idee non moriranno mai, nato skinhead sempre mai sei guai. Scalfire la roccia tu non puoi, una forza millenaria scorre dentro di noi. Le nostre idee non moriranno mai, nato skinhead sempre mai sei guai. Sei tu il sogno di un mondo migliore, avete estirpato radici e tradizione. Ci resta solo la ribellione contro una società vigliacca e senza onore. Svanito il sogno di un mondo migliore, avete estirpato radici e tradizione. Ci resta solo la ribellione contro una società vigliacca e senza onore. Contro una società vigliacca e senza onore.